Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno e buon sabato, cari ascoltatori. Eccoci qua, ben ritrovati con Si può fare. Staremo insieme fino alle 10. Tra pochissimo uno sguardo ai giornali di oggi, una veloce rassegna stampa di una ventina di minuti. Poi cominceremo subito dopo il giornale radio delle 8 con i nostri temi, i nostri approfondimenti a caccia di buone notizie. Cercheremo di capire lavori fantasmi o fantasmi di lavoratori. Cercheremo di capire se è vero che c'è stato un tasso di rinuncia il 46% tra i selezionati per i lavori offerti dall'Expo, oppure se come invece dicono alcune testimonianze non è colpa dei bamboccioni, dei fannulloni, dei ragazzi che rinunciano ai lavori, che se ne stanno a casa piuttosto che andare a lavorare, se è vero invece che ci sono state disfunzioni, ritardi da parte dell'organizzazione di Expo, oppure se come dice invece qualcun altro gli stipendi non erano all'altezza, il lavoro era troppo stressanti, eccetera eccetera eccetera. Questo dopo il giornale delle 8. Poi andremo anche ad Anacapri, dove la piccola città di Anacapri ha deciso di fare un referendum per affrontare il tema sensibile delle slot machine. Questo però dopo il giornale delle 8. Adesso cominciamo coi giornali di oggi. Vai. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, come detto, rassegna stampa Italia-America sulla vicenda Lo Porto, naturalmente sui giornali di oggi, ma anche lo strappo dell'Europa con la Grecia e anche politica interna con la settimana che si aprirà sul tema dell'Italicum. Cominciamo con il Corriere della Sera. Obama non informò l'Italia. Secondo il New York Times l'identità della vittima era nota prima del vertice della Casa Bianca. Leggeremo tra poco alcune notizie, alcune indiscrezioni su questo, ma insomma la notizia in grado così, diciamo, al momento di mettere una visaglia, no, da parte dell'opinione pubblica italiana, ma anche forse di raffreddare un po' le relazioni tra Italia e Stati Uniti. Vedremo. Però la notizia che sceglie di mettere a centro pagina il Corriere della Sera a proposito poi di questa situazione è l'aula del Parlamento vuota, deserta, semideserta, con tanto invece di bambini in visita venerdì in Parlamento ad osservare una scena desolante. Il ministro Gentiloni che riferisce sulla vicenda Lo Porto, il Parlamento vuoto, l'aula vuota davanti ai bambini, vuota a destra, a sinistra, al centro, vuoto dalle parti del governo e da quello delle opposizioni, un'aula vuota, scrive il Corriere, un Parlamento totalmente vuoto davanti ai bambini in visita, mentre il ministro Gentiloni riferisce sulla morte del cooperante Lo Porto, ucciso da un drone americano. L'altra notizia che sceglie di approfondire però il Corriere è questa: telefonate e indizi, un piano per colpire Roma e il Vaticano, a proposito del terrorismo internazionale di Al Qaeda. Vediamo di che cosa si tratta. L'ipotesi di un attacco al Vaticano. Ieri l'imam di Bergamo e di Brescia è stato arrestato assieme ad altri 9 islamici, 12 sono ancora ricercati, tra cui 3 in Italia, con l'accusa di aver tirato le fila di una organizzazione terroristica affiliata ad Al Qaeda, che oltre a raccogliere fondi per la jihad e fare traffico di armi e di immigrati, preparava attentati in Italia, aveva un kamikaze pronto ad agire, con un probabile obiettivo il Papa, che all'epoca era Ratzinger. O l'intercettazione raccolta nel 2010 era questa: è importante eliminare il loro capo, ci sono tanti soldi sul loro papa o baba, stiamo facendo una grande jihad contro di lui. Non c'è ancora però la prova forte, c'è il forte sospetto, scrivono gli inquirenti di Cagliari, che si trattasse del papa, anche se non è sicuro. Repubblica, il titolo principale è sempre sullo porto, il giallo Italia-America, Obama non lo disse a Renzi. Poi a proposito della politica interna, il tema dell'Italicum, dicevamo sì all'Italicum o cade il governo, questo ha detto ieri Matteo Renzi. La settimana che si apre su questo fronte dovrebbe essere abbastanza, diciamo così, diciamo cruciale, non, per non dire decisiva, perché non c'è mai niente decisivo in politica. Poi la foto di Varoufakis, il ministro delle finanze greco, esordisce come una star all'indomani delle elezioni vinte da Tsipras, figura da studiare, da capire. E adesso invece la sua parabola sembra essere arrivata a un punto più basso. Varoufakis è ministro dilettante, l'Europa sfiducia la Grecia. Vedremo più avanti di cosa si tratta. Torniamo però all'interno di Repubblica sul tema Loporto e del Parlamento vuoto. Solo 40 deputati per ascoltare il ministro degli esteri Gentiloni, la rabbia della Boldrini che dice lesa l'immagine della Camera per questo Parlamento veramente deserto. Ma c'è chi non pensa sia stata lesa l'immagine della Camera per via dell'assenza dei parlamentari, invece rivendica la sua assenza con queste ragioni. È il parlamentare Riccardo Fraccaro del Movimento 5 Stelle che, intervistato alla Repubblica, dice: non c'ero e me ne vanto, meglio non assistere, è un discorso inutile. Onorevole Fraccaro, giovedì il Movimento 5 Stelle ha chiesto al governo di presentarsi con urgenza alla Camera per riferire sul caso Loporto. Sì, è vero, abbiamo chiesto le dimissioni di Renzi, ma lei ieri c'era quando il ministro Gentiloni, accogliendo la vostra richiesta, si è presentato a riferire? No. Perché? Ritengo che fosse inutile essere presente ad ascoltare parole vuote. Parole vuote, se non è una contraddizione la domanda, però è questa: chiedere a un ministro di presentarsi con urgenza e poi non essere presente ad ascoltarlo? Sì, se venissero a rispondere coi contenuti, ma siccome dal governo arrivano parole al vento, allora tanto vale non esserci. Però come faceva Fraccaro a sapere che Gentiloni avrebbe risposto con parole al vento? Bisognava esserci e dirlo, non puoi andartene, non presentarti, io credo almeno, e poi giocare sulla fiducia, dire beh tanto saranno sicuramente parole al vento quelle di Gentiloni, quindi non ci vado. Ma insomma, è un po' curioso come atteggiamento. Comunque, che cosa ha fatto però lei al posto di venire in Parlamento, onorevole Fraccaro? E sentite qua, si apre un altro scorcio della vicenda. Sono stato sulla strada a Trento, la mia città, ad aiutare la gente. Facendo che cosa in particolare? Da due giorni una madre si era incatenata davanti al consiglio provinciale perché il figlio, dopo 17 anni di contratti a termine, era rimasto disoccupato. La società che lo aveva cacciato era privata, i fondi però erano pubblici. Così quella mamma accusava la provincia. E lei come è riuscito ad aiutare questa donna? Sono stato con lei tutta la notte per confortarla. Alla fine il presidente del consiglio provinciale si è impegnato ad aiutare il figlio a trovare un altro lavoro. Stare con quella donna è stato più utile che ascoltare Gentiloni. Questa è la posizione dell'onorevole Fraccaro del Movimento 5 Stelle. Può darsi che abbia ragione. Certo, però viene da pensare, allora forse non fai il parlamentare, il tuo posto in Parlamento, ma fai qualcos'altro, fai l'assessore, il consigliere comunale a Trento o regionale in Trentino, non lo so, giudicate voi, cari ascoltatori. Ci fermiamo per il traffico e torniamo tra pochissimo di nuovo sui giornali. E allora di nuovo buongiorno cari ascoltatori da Alessio Maurizi e di nuovo insieme sui giornali di oggi. A proposito della vicenda Loporto e di quello che è accaduto con insomma questo raid di droni americani sul compound dove oltre ai terroristi c'erano anche due rapiti, cooperante italiano e americani. Sui droni la Casa Bianca rivedrà le regole, questo scrive La Stampa con un retroscena. Il presidente è furioso per l'errore, anche se non può rinunciare ai blitz, chiederà alla CIA certezza nei bersagli. Questo è quello che avrebbe detto, secondo il New York Times, Obama parlando alla sua intelligence. Il presidente è furioso per questo errore commesso, che però non può rinunciare ai droni, a questi velivoli telecomandati che vanno si sono sostituiti in molti scenari di guerra ai soldati, ai militari, facendo rischiare di meno alle forze armate americane e portando a casa comunque dei risultati. Accade in Iraq, in Afghanistan. Ci sono due tipi, scrive La Stampa, di raid da parte dei droni: i kill list, cioè c'è una lista precisa di obiettivi, persone che l'intelligence ritiene necessario eliminare. Si chiede l'autorizzazione del presidente americano, il quale dice ok, andate a colpire. Viene colpito il singolo personaggio, quello che doveva succedere anche con Osama Bin Laden, anche se poi in quel caso, scrive la stampa, si decise di lanciare un raid a terra. Poi c'è un'altra serie di interventi fatti dai droni, come quello che ha colpito l'Oporto. È il Signature Strike, si chiama così. C'è un elenco di obiettivi, l'intelligence individua i target, per esempio un compound, un complesso, un edificio, e si sorveglia per alcuni giorni, per alcuni tempi. Quando sono sicuri che l'obiettivo è quello giusto, ma scrive la stampa col virgolettato, quando si arriva alla quasi certezza che si tratti di una base terroristica, perché la certezza, stando là con un drone, non puoi mai averla, perché sono immagini riferite dall'alto, a quel punto si colpisce. Nel caso di L'Oporto, l'intelligence era convinta che la base bombardata fosse usata solo da quattro terroristi. Sono rimasti sorpresi quando hanno visto estrarre sei corpi dalle macerie. Sulla vicenda invece della Grecia, che tiene col fiato sospeso fino a un certo punto, perché sembra una tiritera che va avanti da anni ormai, l'Europa intera, scrive il Sole 24 Ore: l'Europa contro Atene, Draghi, il tempo è finito. Toni aspri contro la Grecia. L'Eurogruppo attribuita al premier Tsipras la responsabilità dello stallo sulla proroga degli aiuti. Che cosa riferiscono i cronisti? Per esempio Vittorio D'Arold, sempre informato sulle questioni greche, scrive: dilettante, perdi tempo, avventuriero. Con queste parole incendiarie dette dal presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem e rivolte al ministro greco Varoufakis, si è consumata a riga una delle giornate più convulse e caotiche della storia europea. Una brutta giornata che concludeva una settimana inconcludente sul fronte greco e ratificato l'isolamento di Atene in un momento molto difficile della situazione finanziaria. Secondo una fonte anonima vicina alle discussioni e riportata da Bloomberg, al vertice informale di Riga in Lettonia, l'olandese Dijsselbloem avrebbe affermato che Varoufakis, il ministro greco, nella gestione della trattativa ha tenuto una linea irresponsabile. Insomma, siamo arrivati al punto più basso nei rapporti tra l'Europa e la Grecia, almeno stando a queste dichiarazioni. Sole 24 Ore però si incarica di darci anche un'altra notizia, che a dire la verità non è una bella notizia, perché ci sono in arrivo tagli a 52 agevolazioni. Parliamo naturalmente di Italia, parliamo di spending review e del primo menu dei tecnici, che mette nel mirino anche il bonus per i mobili e per le ristrutturazioni. Stanno lavorando su questo dossier Roberto Perotti e Joram Gutgeld, i due commissari per la spending review, che sul fronte agevolazioni avrebbero intenzione di racimolare 1,7 miliardi nel 2016, quindi di risparmi. Dal taglio di queste agevolazioni, quali sono le agevolazioni nel mirino? Dalla sanità all'agricoltura, dall'editoria al mezzogiorno, per non dimenticare l'edilizia con il bonus ristrutturazioni o gli sconti per l'industria e la distribuzione di carburanti, ma potrebbero arrivare a colpire anche le detrazioni per le spese sanitarie e per le badanti, per allargare insomma l'incasso. Dentro ci sono appunto il bonus per le ristrutturazioni, quello per i mobili, eccetera eccetera. Si tratta ancora di misure allo studio, quindi diciamo, per ora non c'è da allarmarsi, da mettersi lì a fare i conti, però c'è da stare alla finestra e vedere, perché insomma sicuramente queste agevolazioni hanno contribuito, diciamo così, ad allentare le spese di molte famiglie. Poi sul fatto sia giusto colpirle o no, vedremo, ognuno poi dirà la sua, ma insomma vedremo soprattutto se davvero Gutgeld e Perotti puntano a questi risparmi e non, come si credeva ai tempi di Cottarelli, a tagli diciamo alla spesa pubblica improduttiva. Oddio, è anche questa spesa pubblica, Poi sul fatto sia improduttiva o no, questo ognuno può giudicare. Torniamo al tema dei migranti, con intervista al ministro dell'interno Angelino Alfano sul Messaggero. Troppi migranti al sud, accordi europei per cambiare. Insomma, in settimana c'è stato anche questo importante vertice, il Consiglio straordinario europeo sull'immigrazione. Al ministro Alfano si chiede un bilancio di questo punto europeo sull'immigrazione. Ma resterà sempre un problema italiano questo? Assolutamente no, risponde Alfano. È un problema europeo. Non è possibile che 5 paesi, Italia, Germania, Svezia, Austria, Ungheria, sopportino da soli questo carico. I numeri parlano chiaro. Al 31 marzo del 2015 il sistema di accoglienza segnalava 70.000 persone in Italia, 80.000 in Svezia, 200.000 in Germania. Non sono questi i paesi che devono dare di più, dice Alfano, ma sono gli altri 23 paesi europei che devono dimostrare uno spirito di solidarietà reale, non come ha fatto l'Inghilterra, che ha detto vi diamo una nave ma non vogliamo che i profughi richiedano diritto d'asilo in Inghilterra. E allora che cos'è il bilancio di questo vertice europeo? Ministro Alfano, stiamo lavorando perché si instauri un sistema comune che nella sostanza superi l'accordo di Dublino e renda meno rigidi e più solidali i meccanismi previsti da uno strumento che ormai nei fatti è obsoleto. Ricordiamoci che Dublino era nato negli anni 90 per risolvere il rischio che paesi con un welfare migliore attraessero un maggior numero di migranti. In quale modo volete superare Dublino? Pensiamo a permessi temporanei di 1 o 2 anni per consentire ai richiedenti diritto d'asilo di andare anche in altri paesi d'Europa. Però di fatto, di concreto, però non c'è molto, se non questi 5.000 permessi momentanei. Il meccanismo dei 5.000 posti di un progetto volontario in tutta l'Unione Europea, dice Alfano, sul reinsediamento è un primo varco per superare Dublino. Ma 5.000 basterebbero? Qua si parla di decine, centinaia di migliaia. Assolutamente no, dice Alfano. Stiamo puntando a una strategia globale e vedremo se l'obiettivo sarà centrato. Torniamo su Repubblica per una notizia curiosa, che è questa, e che forse è anche una buona notizia per gli infermieri italiani. Londra, la carica degli infermieri made in Italy, sono i più bravi. Succede che, riferisce l'inviato a Londra, l'ospedale di Suffolk, 50 km da Cambridge, ha una carenza di personale in questo periodo. Sta cercando infermieri per la chirurgia, la cardiologia e il pronto soccorso, ma non li cerca in Inghilterra, ma a Palermo. Dal 28 aprile al 30 aprile, in un albergo della città siciliana, si terranno colloqui per le assunzioni. Ce la farà chi ha in tasca una laurea triennale e parla un buon inglese di base. Il motivo per cui si cercano gli italiani è che sono preparati, sono flessibili, soprattutto in questo periodo hanno un enorme bisogno di lavorare. Questo però accade anche in altri ospedali inglesi e le selezioni ci sono anche in altre città: Milano, Roma, Bologna. Infermieri italiani che avete voglia di fare un'esperienza all'estero e guadagnare magari qualche cosa di più, fatevi avanti assolutamente. In chiusura una good news, vai! And now the good news! Beh, insomma, quando si parla di INPS e di pensioni, parlare di good news è già un'esagerazione. Però è in arrivo il simulatore dell'INPS per conoscere il proprio assegno. A differenza che in passato, quando c'era un'assoluta mancanza di trasparenza sulle previsioni delle pensioni future, adesso l'INPS sta per mettere a punto e sarà operativo dal 1 maggio il primo scaglione per gli under 40. Andate sul sito dell'INPS e scoprite, fate le previsioni su quella che sarà la vostra pensione, uno strumento indispensabile per valutare cosa fare dei propri contributi. Ci fermiamo, c'è il giornale radio, torniamo subito dopo, apriremo anche il numero verde 800 24 00 24. A dopo. BMW Freeride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Buongiorno Ciao da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. E da Carlo Gabardini, buongiorno e buona liberazione a tutti. 800 24 00 24. Oggi Milano Monterosa com'è? Nuvoloso? Un po' nuvolosetto, ma si aprirà, c'è la manifestazione, speriamo che si aprirà per il pomeriggio. Ma io vedo delle nuvole nere carichissime e un'aria molto fresca. Tu vedi nero, ma oggi è il giorno della liberazione, non si può vedere nero, è proprio il giorno in cui il nero non lo si vede più. Oggi ho capito che ti devo tenere a freno, Carlo, questo 25 aprile, questa manifestazione. A che ora è la manifestazione a Milano? Alle 14, non lo so con precisione perché parte praticamente da sotto casa mia, quindi io mi metto lì e quando parte, parte solitamente da Piazza Oberdan. Parte da casa tua? Sì. Parte di lì proprio? Sì, partiamo noi. Cioè il raduno proprio istituzionale? Quasi sempre sì. Io sarò in piazza di sicuro 25 aprile, ci mancherebbe altro. Allora, anzi, ti cito anche, come ho scritto sul mio Facebook, citando dal mio libro Fossi in te, io insisterei. Siccome mi chiedono come mai sarà in piazza il 25 aprile, il prezzo è più lungo, ma te lo leggo molto brevemente. Quanto mi mancava parlare con uomini ottantenni che in ogni parola hanno la praticità di chi a 10 anni è stato costretto a diventare uomo perché intorno a sé aveva la guerra, i fucili puntati, i morti per strada conosciuti per nome. Troppo spesso dimentichiamo che la democrazia in Italia nasce sulle macerie di una guerra civile durante la quale i nostri nonni si sono ammazzati fra compagni e camerati, ma anche tra fratelli, vicini di casa, a volte amanti della stessa donna, a schioppettate, in piazza, sotto gli occhi di tutti. Bisogna che ogni tanto ce la facciamo riraccontare, finché avremo la fortuna di poter incontrare dei testimoni oculari, perché poi questa storia toccherà leggerla nei libri facendo la tara. Ecco perché vado in piazza. Come siamo volati alti, adesso vi riporto giù, state tranquilli. No, ma io però motivo perché si va in piazza è anche per incontrare chi la resistenza l'ha fatta e farsela raccontare, uno magari ha anche un'altra posizione o pensa, come ha detto Mattarella, la resistenza fu anche dei nostri militari che decisero di non entrare nella Repubblica di Salò e resistettero non iscrivendosi. Tra l'altro 800 24 00 24, vi chiediamo proprio questo oggi, così attualizziamo però questo concetto di liberazione. Di che cosa c'è bisogno oggi di più di liberarsi? Perché insomma sono passati 70 anni, è un momento storico fondante, importante per la nostra Repubblica, per la nostra democrazia, però siamo migliorati, abbiamo fatto dei passi in avanti, ma non è che i problemi non manchino oggi. Di cosa c'è bisogno di liberarsi? Dal fanatismo? Non lo so, da un sacco di cose. Quali problemi? Dalla disoccupazione? Qualcuno invece vorrebbe liberarsi dall'incubo di lavorare? Per esempio oggi parliamo proprio di questo, di lavori fantasmi o di fantasmi di lavoratori, perché sapete, la notizia di questa settimana è che la buona notizia è che i posti di lavoro per Expo ci sono e le candidature, 1000 candidature sono andate tutte a buon fine, però c'è stato un tasso di rinuncia altissimo tra i ragazzi che erano candidati, selezionati proprio a lavorare per 6 mesi. Un tasso spaventoso di rinuncia. Sì, il Corriere ha detto l'80%, Manpower, li sentiremo tra poco, hanno corretto quasi il 50%. No, ma credo che siano in due fasi diverse. Il 46% dal primo scaglione, ma calcolando che hanno dovuto prima fare di entrare tre nei tecnicismi, cercheremo di capire se è una disorganizzazione da parte di Expo, siamo arrivati troppo a ridosso, se gli stipendi erano veramente troppo bassi, oppure se c'è un tasso di ragazzi a cui interessa poco andare a lavorare forse per quegli stipendi. 800 24 00 24. Cos'altro dobbiamo dire? Il gioco, hai detto il premio del gioco. Ricordiamolo, perché noi siamo sempre in collaborazione con l'Associazione dei Comuni Virtuosi, in occasione del bando nazionale del premio Comuni Virtuosi, per cui tutti i comuni che ci stanno ascoltando, sindaci, assessori, ma anche singoli cittadini che vogliono candidare alla loro città delle buone pratiche, ambiente, mobilità e gestione dei rifiuti, possono andare sul sito dei Comuni Virtuosi e partecipare. Loro oggi ci mettono a disposizione, come è già capitato anche altre volte, un bel cesto di prodotti tipici a base di asparago rosa del comune di Mezzago, comune virtuoso. E noi ci teniamo molto a ricordarlo perché speriamo prima o poi di assaggiarlo anche noi questo asparago rosa. Anche se io non lo so cucinare di sicuro, quindi chiederò su Twitter come si cucina. Domani c'è il weekend invece in premio. Domani 8:30-11 la puntata della domenica. Seguiteci sempre. Adesso che facciamo? Iniziamo? Ma certo che sì. Altro che i lavoretti alla volontaria. Milano, voti 65. Smirne, voti 86. L'Expo va. Milano, i suoi cantieri non si ferma più. Sistemano il salotto per le auto blu. Nel 2015 sai cosa c'è? Prepara l'H di Noè. Milano inondata dagli espositori. La giunta è disponibile a gestirne i tesori. Parliamo di questi lavori fantasma a Expo. Turni scomodi a Expo, 8 su 10 ci ripensano. E questa è la notizia apparsa sul Corriere della Sera a metà settimana, che riferiva questo: l'80% delle persone arrivate a un passo dalla firma dopo vari colloqui ha rinunciato a fronte di stipendi da 1300 euro netti. Forse perché si doveva lavorare nel weekend, forse perché c'è da lavorare la sera, forse perché è un lavoro precario. Sui social network apriticielo una serie di reazioni schizofreniche. Da un lato chi diceva svogliati, bamboccioni, fannulloni, all'altro diceva stipendi bassi, Expo non sa fare i colloqui, lavoro precario, questo non è vero Expo lavoro. Non sa fare i colloqui è una bella critica, manco i colloqui. Manco i colloqui. Che dove li hanno fatti soprattutto, in che capannone li avranno fatti? Poi sono arrivate le precisazioni di Expo e di Manpower, che hanno messo a punto insomma le cifre. Adesso entriamo nel dettaglio anche di questo, intanto salutiamo, perché noi ci piace inzigare, entrare nella notizia e capire davvero di cosa si è trattato, Stefano Scabbio, che è presidente di Area Mediterranea di Manpower Group. Buongiorno, sabato. Buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Che era già stato con noi al tempo in cui si erano aperti questi bandi di lavoro, perché insomma era una buona notizia. La notizia è che il lavoro, almeno insomma, questi 1000 posti non saranno molti, però per il sito di Expo poi ci sono tutte le cose collaterali. Saranno anche a tempo determinato, esatto, però comunque è un'opportunità. È un lavoro stagionale. Di lavoro, esatto. Allora, Expo ha precisato che i posti di lavoro erano, c'erano 80 stage a 500 euro al mese, 250 circa posti di lavoro come team leader di area a 1700 euro netti e poi altri 400 e rotti posti di lavoro a 1300 euro netti al mese. Voi di Manpower avete poi, diciamo, parzialmente corretto la cifra del Corriere dicendo che era un tasso di rinuncia inferiore, ma comunque alto, 46% di rinunce. Ci spiega a cosa si riferisce questa cifra? Sì, volentieri, perché su questo tema, come avete detto, si è letto di tutto di più, cerchiamo di dare informazioni concrete per leggere seriamente il fenomeno che appunto viene raccontato in tante versioni diverse. Proprio ieri, per fare chiarezza, abbiamo pubblicato sul nostro sito i risultati del processo di selezione, che dobbiamo chiaramente dire che è stato un processo estremamente trasparente e rigoroso, che ha portato alla selezione di queste circa mille giovani talenti. Io partendo da 160.000 quasi candidature. Partendo da 156.000 candidature. No? È vero che alla fine i 1000, che dopo un processo estremamente lungo, che è partito l'8 settembre del 2014 e si è chiuso il 24 aprile del 2015, capite, sei mesi circa di processo, un po' a ridosso, però dare, questo dobbiamo dirlo, questo, un pochino forse. Questo non c'è dubbio, ma sappiamo magari non è colpa vostra che ci sono stati nella costruzione, sì, nell'allestimento del sito, inevitabilmente anche il tema delle risorse ha comportato dei ritardi. Quindi questa caduta del 46%, sì, cioè questi 1000 che alla fine per circa il 50% non hanno accettato il lavoro, nonostante uno stipendio ottimo, oserei dire, per i tempi, per la funzione che svolgono, sostanzialmente è dovuto alla lunghezza del processo di selezione, che è durato, come dicevo, sei mesi, e dall'altra parte la ripresa del mercato, che ha offerto a questi talenti opportunità di lavoro più ampio respiro. Ricordiamoci che il 60% di questi è laureato, sì, è laureato. Quindi sono gente preparata, gente in gamba, che a tutti, cioè, quindi lei ci sta dicendo che è normale che selezionando 1000 su 160.000 siano veramente i migliori, e che quindi, diciamo, si fanno i loro conti, dicono 1300 euro di stipendio per fare questi sei mesi, magari dall'altra parte ho un contratto per una borsa di studio o per un assegno di ricerca, esatto, universitario, un altro rinuncio, e voi poi scorrete la lista e andate a pescare più in basso. Sì, assolutamente. Il tema che lamentano molti giovani, che in questi giorni è imperversato sui social, sì, network, eccetera, della non comunicazione, del ritardo, sì, in qualche modo è comprensibile, nel senso che Expo ha deciso di avere un processo blindato fino alla fine, per redigere una classifica da presentare a un consiglio di amministrazione che fosse prima inoppugnabile della promozione e quindi, del consiglio sì. di amministrazione non si poteva comunicare nulla. Ci quindi sono voluti dei tempi di questo tipo. Esatto, perché esatto. io credo che mi assumo anche la responsabilità di quello che dico, ci sia però un tema oggi in Italia di una, come dire, una sottovalutazione della necessità di lavorare semplicemente per portarsi a casa uno stipendio, insomma il dovere di mantenersi e di non farsi mantenere da qualcuno. Però questo può essere un problema educativo, generazionale, che riguarda, riguarda tutti noi. Però in effetti, cioè, da un lato il tema del ritardo, insomma, si è arrivati una settimana prima, è veramente un po' paradossale, no? Cioè, una settimana prima di lavorare, uno che deve iniziare a lavorare il primo di maggio, in realtà non sa ancora. Qualcuno ha detto: sono stato in attesa 2 mesi che Expo mi comunicasse qualcosa e non arrivava nessuna notizia, è vero? Possibile? Sì, sì, è vero, possibile, assolutamente possibile, però come avete ben detto, voglio dire, siamo di fronte a un ritardo evidente, voglio dire, anche se si passa l'autostrada si vede il sito ancora in operazioni, no, in questi giorni, quindi credo però che bisogna avere anche ogni tanto tifare un po' Italia, e siccome stiamo facendo una cosa molto bella, credo che bisogna cercare di vedere anche il bicchiere mezzo pieno e sperare che questo sia un'ulteriore opportunità per accelerare la nostra ripresa, per offrire l'opportunità alle nostre aziende di confrontarsi sul mercato internazionale e offrire ai nostri ragazzi un'opportunità di un'esperienza internazionale e di mettere nel proprio curriculum qualcosa di distintivo. Quindi credo che bisogna guardarla in questo modo. Sì, vai Carlo. No, però io quello che mi chiedo, nel senso che mi riesce difficile pensare che qualcuno rifiuti un lavoro da 1300, 1500, 1700 euro al mese, e mi riesce anche abbastanza difficile pensare che tutti questi abbiano trovato altri lavori, perché c'è una situazione in questo momento in Italia dove è talmente difficile trovare lavoro che mi sembra strano che tutti questi migliaia che hanno fatto il colloquio per Expo hanno trovato un altro lavoro. Quindi io mi chiedo, c'è stata un'altra motivazione, c'è una questione di sfiducia che uno dice questi hanno dei tempi che per 2 mesi neanche mi richiamano, forse non mi pagheranno, oppure c'è una questione di sfiducia che per cui uno dice forse ci stanno chiedendo troppo, nel senso che lo stipendio secondo me è un fior di stipendio, va benissimo, bisogna capire che cosa bisogna fare in cambio, se bisogna lavorare tutti i weekend, tutte le notti, essere a disposizione, magari qualcuno ha deciso di non accettare. Mi chiedevo se cosa ci sono altre motivazioni. No, ma c'è anche questo, non c'è dubbio, c'è anche questo, perché molti ragazzi, magari diversi con cui abbiamo parlato, che sono stati molto molto ligi al loro impegno professionale, scolastico, hanno detto ci sono capitati una serie di esami, preferiamo concludere il ciclo scolastico, e quindi, visto che il periodo è stato così lungo, quando si sono resi conto che avrebbero dovuto lavorare tutti i weekend, in qualche maniera hanno provato a fare la selezione, sono arrivati al termine, è una soddisfazione personale di esserci riusciti, e poi hanno optato per continuare gli studi, altri perché hanno trovato un'opportunità, altri ancora, molto pochi devo dire, come dite voi, per i motivi che voglio dire, è estremamente faticoso, non c'è dubbio, questo non è che possiamo negarlo. Secondo me la vera domanda è estremamente faticosa, perché stare tutte quelle ore a contatto col pubblico con un volume di persone che saranno enorme, di visitatori enorme, con la necessità di dover interloquire costantemente, sapete, quando siamo a contatto col pubblico la difficoltà e come questo diventa stancante, no? Sì. Quindi credo che anche questo sia da mettere in conto. Però è anche una sfida straordinaria, un'opportunità, un investimento per un ragazzo, trovarsi in mezzo a investitori di tutto il mondo, persone di tutto il mondo, parlare le lingue, essendo pagati, non dico di andare a fare il volontariato, questo ovviamente no, però a volte lavorare quando hai meno di 30 anni o sei intorno a quell'età lì è anche un investimento che fai, oltre allo stipendio che ti porti a casa, per vedere se crei dei contatti, se ti fai le ossa anche. Certo, stressante, come dice lei, però se uno non si stressa a 30 anni per il lavoro, quando deve farlo? Questo. Certo, non dimentichiamo che, per esempio, se prendiamo la figura dell'area team leader, no, è un responsabile dei servizi di più padiglioni, è un vero project manager. Quindi è una persona che ha una responsabilità di persone e di servizi, quindi è un ruolo all'interno di un sito, no? molto importante, quindi voglio dire ci sono anche ruoli di una certa responsabilità. Ma quindi può essere che qualcuno si sia sentito sottopagato perché dice è una responsabilità enorme, devo lavorare tutti i weekend, devo lavorare un sacco di ore al giorno. 1700 euro, eh? E non mi... Ma guarda che prendono 1700 euro netti, è vero, per sei mesi, quindi... No, mi stavo chiedendo molto... se voi avevate avuto questo tipo di reazioni. Io non penso che sia uno stipendio basso, poi non lo so, non mi intendo di questo tipo di lavoro. Cioè, però se qualcuno, volevo capire se qualcuno l'aveva detto, può aver detto io per 3.000 lo farei. Per essere responsabile di un'area non voglio 1.700 ma ne voglio 2.000-2.500. Qualcuno ha detto cose questo di questo non tipo? Sono non sono in grado di dirvelo. Non ha fatto lei dubbio. Le selezioni. Secondo me però la questione da chiedersi è anche questa: se chi ha rinunciato, come diceva Carlo prima, effettivamente adesso ha in mano un altro contratto di lavoro, fa un'altra cosa, o se resta a casa in congelatore. In questa seconda ipotesi, secondo me, ci sta l'errore, se c'è. Se no, complimenti a chi ha trovato un altro lavoro e va tutto bene così. È una percentuale, il 50% di rinunce che avete ritrovato anche in altri processi di selezione del personale? Cioè, è usuale, succede in Italia una cosa del genere o è un caso legato a Expo? L'ultima domanda che volevo fare. La percentuale è molto elevata, normalmente è un po' più bassa, è intorno a circa un 30%, 25-30%, quindi la percentuale è un po' più alta. Qui forse ha giocato anche diciamo il fatto che l'evento è precario di per sé, questo lo sapevamo tutto. Ma dovete anche metterlo in correlazione con il fatto che è partito, voglio dire, comunque un effetto positivo nel macroeconomico, sì, di ripresa del paese, con un contratto a tutele crescenti che in attraente, questo momento, sì, sì, chiaro. Le faccio, c'erano le alternative, questo lo abbiamo capito. Le faccio una domanda brevissima che è un SMS: dove li alloggiavate questi lavoratori, ci chiedono? No, la maggior parte di loro no, alcuni sono su padiglioni ma sono casi particolari, cioè dormono dentro i padiglioni? No, dico alcuni sono contratti sui padiglioni, ma sono casi particolari, un altro tipo di selezione, non è quella per Expo, quindi Expo no. Cioè l'alloggio se lo trovavano per conto loro, questo sì, è... Sì, ah no, perché sì, pensavo sì, fosse un punto dirimente questo. No. Grazie, no, grazie Stefano Scabbio per essere stato con noi di Manpower Group. E così abbiamo approfondito, capito, dato alcuni dettagli concreti su questa notizia. Cari amici ascoltatori, 800 24 00 24. Che cosa ne pensate voi, visti gli elementi che sono questi? Ci sentiamo tra poco, c'è una piccola pausa, poi vi chiediamo anche di intervenire naturalmente per raccontarci insomma il vostro 25 aprile e di che cosa attualizziamo. C'è bisogno oggi di liberarsi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, 800 24 00 24. Oggi è il 25 aprile, noi lo santifichiamo così, vi chiediamo di attualizzare questa data in occasione dei 70 anni di questa celebrazione importante. Di cosa volete liberarvi? Di cosa c'è bisogno oggi, secondo voi? Anche seriamente di liberarci dal fanatismo, vale tutto. Io ho detto dalla disoccupazione, abbiamo parlato adesso di lavoro, oppure se vogliamo andare sul leggero, sul prosaico, dalla suocera, stavo pensando prima, che è un sempreverde. 800 24 0024, cioè potete anche raccontarci storie vostre, va benissimo. Chi è l'importante che è che cerchiate di vincere il nostro asparago rosa, per cui mano anche nel frattempo mi hanno per metà dato la ricetta, dopo se c'è tempo ve la leggo su Twitter, sul mio Twitter personale mi hanno scritto l'asparago. Aspetta che tra poco tra l'altro parliamo di cibo spontaneo e di erbe selvatiche. Perfetto. Sempre in tema di Expo. Santo da Savona, buongiorno. Buongiorno, vi ringrazio dell'opportunità. Senta, grazie a lei. Io non lo so, mi tocco, penso, sentendo la notizia di questo rifiuto di lavoro di questi ragazzi, laureati o futuri laureati, ma scherziamo, ma cosa sta succedendo? In un'Italia che sta sprofondando senza lavoro, senza niente, tutti i giorni sentiamo che c'è un bollettino di guerra di ragazzi che cercano lavoro e questi signori futuri laureati che dovranno comunque insegnare qualcosa ai giovani, spero che ci sia il modo per poterlo fare in questa nostra Italia. rifiutano 1300 euro al mese. È arrabbiatissimo, santo. No, ma andate via, ma che vadano via, no, dall'Italia, però, che vadano a lavorare dove veramente possono guadagnare tutte le cifre di questo mondo, in Dubai, là dove pagano fior di miliardi. Però va anche detto che i numeri sono talmente alti che c'è anche da chiedersi come mai, che cosa è successo, oppure se c'è un problema di educazione, perché sono comunque i nostri o i vostri figli questi ragazzi che, santo, evidentemente decidono lei, che non va bene così. Lei ha figli, santo? Io ho figli, di che età? Posso assicurare che la prima cosa che le ho insegnato, sì, alzarsi al mattino e andare, bravo, a lavorare. No, no, beh, ma io capisco. Proprio come prima cosa, fuori andare a lavorare. Santo, quanti anni hanno i suoi figli, se posso chiedere? I miei figli hanno 40 e 39. Quindi sono belli grandi e lavorano tutti e due, spero. Lavorano tutti e due, le posso assicurare. Bene. Lavorano tutti e due, le dirò ancora di più. Uno è un sindaco. Ah, va bene. Però c'è, sì, però, che soddisfazione che ha avuto con questa mia teoria, sì, di alzarsi e andare a lavorare. Va bene. Santo cosa, è arrabbiatissimo, io sono abbastanza d'accordo con lui. Ma non si arrabbi, però, almeno oggi che è il 25 aprile, non si arrabbi in questo modo. Mi incazzo, ma lo sa perché? Perché io ho cominciato a lavorare. Sì. A che età ha cominciato, santo? A che età? A 10 anni facevo il garzonetto d'officina a Cologno Monzese. Sì, ma non se la prenda con noi. A 10 anni, beh, uno che ha cominciato a lavorare a 10 anni, quando sente che dei ragazzi di 30 anni studiare e lavorare, sento, però non urli, capisco, scusi, che uno, scusi, capisco, che, no, capisco, no, che uno che ha cominciato a 10 anni a lavorare, quando sente parlare i ragazzi di 30 anni che rifiutano lo stipendio, c'è qualcosa che non va, almeno dal punto di vista non di va, santo, non va così, non va. Grazie. Non va, cosa abbiamo insegnato? Sì. Me ne faccio una colpa anch'io, forse. Esatto, è questo che ci stiamo chiedendo. Ha molto ragione lei, nel senso che anche per noi è abbastanza incredibile scoprire però che lui... i ragazzi non accettino questo tipo di lavoro. Però stiamo cercando di capire se c'è anche un altro tipo di motivazione. Lui ci ha, condividiamo, detto, l'indignazione. Ci ha detto la sua, santo. E lui l'educazione ai suoi figli le ha data di andare a lavorare. Certo. Secondo me, sono d'accordo con lui, c'è un problema che riguarda non tanto quei ragazzi, quanto forse i loro genitori che non gli hanno trasmesso questo, sì, impellenza di andare, insomma, a lavorare. Ma tutti noi, però va detto, fino all'altro ieri vivevamo in un paese dove sembrava tutto un po' più comodo e quindi improvvisamente scoprire questo può essere che uno ci provi ancora e dica no, non c'ho voglia di lavorare 7 giorni su 7 tutti i sabati e le domeniche e pagato di meno di quello che speravo. Poi torniamo tra un attimo. I giovani, più giovani, siamo l'esercito del surf. Noi siamo giovani, i giovani, più giovani, siamo l'esercito del surf. Insomma, l'avete capito, stamani parliamo dei giovani e l'Expo, di queste opportunità di lavoro che si sono create e di questo alto tasso di rinuncia, quasi il 50%. C'è anche chi però, sempre tra i giovani, coglie l'occasione di Expo per portare avanti idee imprenditoriali, attività, start-up, aziende, posti di lavoro. Abbiamo con noi Valeria Margherita Mosca, fondatrice di Wooding. Buongiorno Valeria. Ciao, buongiorno. Tu sei giovane? Quanti anni hai? Io 35 anni. Giovane, va bene, sì. In Italia si è giovane almeno fino ai 72. 55, 58, esatto. 60, 65. 70. Quando si ha meno anni della liberazione si è giovane in si questo giovane. Paese, giustamente. Quindi sotto i 70... E poi a volte qualcuno ci insegnerebbe che invece si è giovani sempre, basta esserlo nello spirito. No, qua stiamo parlando di che cosa? Della tua idea imprenditoriale, fondatrice di Wooding, un'idea legata al cibo spontaneo, alle erbe selvatiche. Una cosa molto curiosa che si sposa benissimo con Expo, evento al quale, se ho capito bene, cercherai di agganciare la tua attività imprenditoriale per farla crescere, Valeria. Sì, in un certo senso sì, diciamo che cercheremo di sfruttare l'energia che si sta creando intorno a questo evento e di avere più sostenitori, diciamo. Energia a corrente alterna, perché come abbiamo appena sentito ci sono tanti tuoi coetanei che questa energia non hanno sentita e che di fronte, diciamo, ad alcune opportunità di lavoro nel sito, nel Padiglioni, hanno rinunciato, ma evidentemente avevano delle alternative. Tu invece di cosa ti occupi? Allora, Wooding è un vero e proprio laboratorio di ricerca sull'utilizzo del cibo selvatico in cucina. Quindi quello che faccio è semplicemente andare ad esplorare i nostri ecosistemi, ti faccio un esempio, i boschi, i prati o le montagne, in ogni stagione. Riconosco e raccolgo quello che è disponibile stagionalmente, le materie prime spontanee che sono adatte appunto al nutrimento umano, e alla fine ne indago le potenzialità organolettiche, i metodi di raccolta, d'uso, conservazione. Diciamo che sperimento delle nuove tecniche con questi alimenti e infine li cucino. Ma tu hai studiato per riuscire a essere in grado di distinguere cos'è commestibile, cosa no, in un bosco, in un prato, eccetera? Sì, assolutamente, ho studiato. È una tantissimo. Disciplina, insomma. Ma questo è importante, è perché carriera, ovviamente sì. Io non sono in grado di riconoscere un sasso da una bacca, quindi ecco, sarei pericolosissimo se facessi wooding. Sì, infatti può essere molto molto rischioso, bisogna raccogliere solo se si è veramente esperti e se si ha tanta esperienza, perché si può incorrere anche in piante veramente tossiche, anche mortali, quindi può essere davvero rischioso. E forse è per quello che poi noi invece andiamo al supermercato, scusami la provocazione. Ma in un certo senso sì, però secondo me è anche un'attitudine culturale. Diciamo che noi abbiamo perso appunto l'abitudine di raccogliere verso la fine del 1800 con l'arrivo dell'industrializzazione. Tutto inizia di lì. Confermo in effetti, Valeria, che c'è un interesse, un ritorno o anche un'offerta. Per esempio io, dove mi rifornisco io di prodotti di agricoltura non solo biologica, ma insomma c'è un fornitore che mi manda anche delle erbe selvatiche, cose che infatti devo chiamarli per chiedergli come si utilizzano, cosa si può fare, come si cucinano risotti, frittate e cose varie. Di che erbe stiamo parlando? Perché leggo licheni, muschi, alghe e molto altro. Sì, esatto, io raccolgo un po' di tutto, raccolgo in diversi ambienti, dall'alta montagna fino alle spiagge, includo nella raccolta appunto i prodotti più diversi come le cortecce interne degli alberi, le erbe selvatiche, i frutti, le radici. Le cortecce interne degli alberi. E che ci fai con la corteccia? Noi ci facciamo una farina di sussistenza. È una farina di frumento mista a questa parte interna della corteccia di alcuni alberi, che è molto nutriente e pensa veniva usata appunto fino alla fine del 1800 per mischiare queste farine più comuni nei momenti di povertà o carestia. Ma quindi, questa è una cosa bellissima, perché scusami la stupidità, io dentro di me pensavo che fosse più frutti di bosco, invece addirittura andate a raccogliere le radici per farci la farina. Certo, sì, immaginati bello. Tutti gli ingredienti più particolari e strani che la natura può offrirci. Quindi diciamo sfruttare anche quelle risorse inesplorate, no? Cioè la corteccia di un albero che normalmente nessuno se ne cura, nessuno la considera, invece voi ne recuperate questa usanza, questa tradizione in cucina, ma è molto costoso fare questa operazione, cioè alla fine queste erbe selvatiche hanno un mercato? Cioè la gente è disposta a spendere, sì? Allora sì, perché si sta generando un interesse pazzesco, soprattutto da quando il vostro collega Davide Paolini, che è stato un po' il nostro scopritore, che salutiamo e onoriamo sempre moltissimo. Sì, si sta creando tantissimo interesse e abbiamo tantissima gente interessata a fare corsi per imparare a raccogliere o per imparare a cucinare questi ingredienti. Considera che riportare dentro la nostra esistenza l'attitudine di raccogliere ci spinge anche ad approfondire in un certo senso il legame che è al cibo con la nostra esistenza. Valeria, scusami, in 30 secondi però, come vi legate ad Expo? Cioè Expo per voi sarà una bella opportunità, perché nutrire il pianeta è... Assolutamente sì, noi facciamo parte dei tavoli tematici Expo e quindi saremo coinvolti in eventi generati da loro, e in più cercheremo di sfruttare il grande flusso di persone che arriverà a Milano, cercando di coinvolgerle in varie attività come menù di degustazione o corsi di foraging, esplorazioni del territorio circostante a Milano. Quindi cercheremo di approfittare del grande flusso di persone. Complimenti. Ma siamo in chiusura? Siamo in chiusura. Valeria, grazie. Dobbiamo salutarti e salutarci. Grazie. Noi ci risentiamo dopo il giornale radio, vero Carmelo Licella in regia? Sì. C'è la pausa per il GR 800 24. Abbiamo ancora un minuto. 800 mi sono perso. 24. Non credevo che avessimo ancora questo minuto. Allora facciamo parlare un ascoltatore, Maurizio da Pistoia. Maurizio? Sì, buongiorno. Buongiorno. Sì, pronto. Buongiorno, Maurizio. Toscano. Vi volevo rispondere alla vostra domanda di cosa bisognerebbe eliminare oggi, di cosa bisognerebbe liberarci. Sì. Bisognerebbe liberarci immediatamente di Renzi e del PD. Ok. Subito però. E chi mettiamo al loro posto? Subito. Ci mettiamo al loro posto? Però prima voglio sapere. Un'alternativa c'è, io l'ho trovata. Cos'è? Chi è? Il Movimento 5 Stelle. Va bene. L'hanno tagliato semplicemente perché dobbiamo chiudere. Sembrava censura, però ho fatto così. No, invece è solo che dobbiamo chiudere. Va bene, il Movimento 5 Stelle. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Annebbiami l'anima e portami via di qua. A trovare parole e posti non visti mai. E inventami suoni che sapremo solo noi. Noi due come l'angelo che imita Dio, voliamo in alto ma cadiamo giù. Ma so che tu lo vuoi, non moriremo più. L'amore ha scelto noi per arrivar lassù. L'amore lo sa il cielo, lo sa soltanto il cielo. Azzurro più del cielo è l'amore. Questa è Si può fare. Questa che avete ascoltato è Cielo e Terra del gigantesco Bobo Rondelli, che amiamo moltissimo. Gigantesco, mi piace molto. Ed è il Si può fare in musica della nostra ascoltatrice Chiara Sensini. Ci segnala Bobo Rondelli e la sua Cielo e Terra per l'amore vissuto con leggerezza. Vi ricordiamo che noi stiamo sempre cercando di Si può fare in musica, quindi ce li potete segnalare, oppure se siete dei compositori, dei musicisti e avete composto delle canzoni ad hoc oppure delle canzoni che rispecchiano Si può fare, segnalatecele, mandatecele, che noi siamo molto contenti di farle sentire. Lo potete fare sui nostri account social di Facebook, Si può fare trattino Radio 24, oppure sul nostro account Twitter, chiocciola Si può fare 24, oppure sui nostri account personali. Il mio è chiocciola Carlo Gabardini e il mio chiocciola Ale Maurizi. Tra l'altro Bobo Rondelli lo avremo, spero, ospite in studio. Lo sogniamo da un tra sacco qualche di mesi. Weekend, vediamo se ci riusciamo. Che dire, 800 24 00 24, cari amici all'ascolto. Siamo partiti questa mattina dai lavori fantasma o il fantasma dei lavoratori all'Expo, cioè dalla notizia, insomma, di questo alto tasso di rinuncia tra i 1000 selezionati per lavorare all'Expo. Il 46% ci ha confermato il responsabile di Manpower Group poco fa. Insomma, bamboccioni, fannulloni, oppure condizioni di lavoro stressanti, stipendi troppo bassi, come la vedete? 800 24 00 24. Poi vi chiediamo oggi di stare con noi e di dirci come attualizziamo la liberazione, i 70 anni della liberazione, di cosa c'è più bisogno oggi, insomma, di liberarsi. Abbiamo avuto un ascoltatore, sembrava quasi che volessimo censurarlo, ci sono anche dei messaggi all'ascolto. No, non lo volevamo, eravamo in chiusura. C'era il GR. Io volevo anche fare un'altra domanda sul wooding, assolutamente non era quello. Invece sulla precisione per i lavoratori dell'Expo, questo mi sembra corretto. La domanda, sì, che ho fatto sulla questione dell'alloggio, è questa la questione: siccome la maggior parte di questi lavoratori non sono di Milano e siccome a Milano gli affitti costano molto, soprattutto sotto Expo costano ancora di più, una delle questioni è stata: ma se io devo pagare alla fine 800 euro di affitto, vengo per 1300, non ce la faccio a Milano vivere con 500 euro in un mese. A fil di Thier su Twitter scrive a proposito del nostro partnership con i comuni virtuosi: non vincerò mai gli asparagi, però vorrei liberarmi in questo 25 aprile dai vegani astemi, no? Perché poi in particolare agli astemi, beh, perché gli astemi di sera danno più fastidio, sono in quel un po' fastidiosi, senso. Però bisogna rispettare anche, ma certo, astemi. Ma assolutamente, anzi beati loro perché ci sopravviveranno. Marco da Latina, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Prego, su cosa volevi intervenire, Marco? Sì, allora io sempre sull'Expo, sì. Io nel senso sono un volontario, prenderò servizio il primo turno dal 30 al 14. E nel senso, all'inizio, quando ho cercato di fare il volontario, quindi ho iniziato a prendere su internet informazioni, sì, mi hanno detto sì, ok, sei stato preso e vai avanti. Quando ho cominciato invece a fare la formazione online, mi sono reso conto della grande opportunità che c'è. Scusate, cosa che credo che la maggior parte dei ragazzi che hanno torto il discorso, quindi che non vanno per un discorso economico, non si rendono conto di quello, quindi manca effettivamente proprio manca a livello nazionale il discorso, a livello culturale, perché vedono l'Expo solo come, tra virgolette, è passato un fallimento italiano perché si è state tangenti quello e quell'altro, invece non si rendono conto dell'importanza che c'è, perché basta solo pensare a quel discorso della ragazza di prima che parlava delle radici e tutto, sì, delle erbe selvatiche, divulgato a livello, esatto, a livello nazionale. Però l'Expo in Italia non è passato come un'esperienza, e credo che anche loro la vedono solamente, sì, come un discorso, beh, poi, economico. Qualunque esperienza di lavoro, insomma, quasi qualunque, ora io non so, ci saranno delle eccezioni, e anche soprattutto quando hai un'età in cui hai meno di 30-35 anni, è anche un investimento che fai per imparare un mestiere, per capire chi ti sta intorno, per conoscere gente. Addirittura, Marco, tu lo fai come volontario e lo consideri un investimento su di te. Naturalmente avrai modo di mantenerti in qualche altro modo se riesci a fare volontario per un mese. Dove? Ma qui a Expo, proprio a Milano? Sì, a Milano, Expo, noi facciamo dei turni calcolando che il mio programma arriva dalla settimana scorsa, sì, quindi tutto in ritardo, però io ci tengo perché voglio investire. E cosa, dove sarai assegnato? Lo sai già? Siamo curiosi. Esatto, sì. Allora, il discorso è che hanno fatto degli ostelli e degli hotel per tutti i volontari, sì, garantiscono un pasto al giorno, sì, e poi a discrezione dell'hotel danno anche la colazione. Facciamo un turno dalle 8:30 fino alle 2:30, poi la settimana successiva, perché sono 15 giorni di seguito, sì, dalle 2:30 alle 8:30 la sera. Quindi 6 ore al giorno. Sicuramente 6 ore al giorno, l'alloggio, un pasto e mezzo a giornata. E non può essere per più di 2 settimane, avevo letto, giusto? Esatto, sì, rimangono sui quasi 15 giorni. Tu hai vinto l'apertura, lavori il 1° maggio, giusto? Sì. Esatto, e quello là, sì, io faccio adesso il 30, prendiamo il kit, che sarebbe un kit che viene preso lì, e poi si entra nell'Expo e si fanno questi turni, vengono assegnati in dei posti specifici, e lì, sì, c'è poi il capoturno, che secondo me sarà uno dei questi ragazzi. Probabilmente. Ma chiamaci anche settimana prossima, che così ci dici, bravo, che cosa c'è dentro nel kit, oppure ti chiamiamo noi se lasci il numero, che siamo molto curiosi, Marco. È l'opportunità buona. Io l'unica cosa che avverto è che il discorso è che se io mi faccio 14, sì, giorni e sto giovane e mi porto un mazzetto di 40 curriculum e inizio a mandare all'azienda e quant'altro, sicuramente qualcosa esce. Vedi, Marco, verrà attrezzato, ben organizzato. Vabbè, c'è stata anche un po' di polemica su sti volontari. Frank High Energy, che è uno dei testimoni, certo, dell'Expo, certo, dei Popoli, per esempio, ha detto: no, ma perché dobbiamo pagarli tutti? Però avete sentito la motivazione di uno che invece ci va volentieri. Ma è sempre una questione difficile quella dei volontari, sì, perché in realtà tutti i festival si reggono sul fatto, sì, che ci sono dei volontari, sì. È vero che Expo è una cosa molto più istituzionale, viene vissuta, sì, come istituzionale, è la fiera mondiale, e quindi viene difficile, uno dice, ma perché bisogna avere anche del lavoro non pagato? Però è anche vero che queste gigantesche manifestazioni senza volontari non si possono reggere in piedi, vedi le Olimpiadi, sarebbe impossibile pagare tutte le persone. Le cose di cui volete liberarvi all'800 024 0024. Tra poco ci abbiamo Rossana da Milano, Giorgio da Ferrara, li sentiamo dopo il traffico. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta: si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. tra poco sentiremo anche il sindaco di Anacapri, cittadina di 7.000 abitanti, che ha deciso di indire un referendum sulle slot machine per chiedere su questo tema, come sapete noi lo seguiamo molto, sensibile ai cittadini, divisi probabilmente nell'opinione pubblica tra i giocatori e quelli che invece ritengono che le slot siano un po' una iattura, che cosa ne pensano, se vogliono limitarne la diffusione nella città. Tra poco lo sentiremo. Adesso invece all'800 24 00 24 abbiamo un po' di ascoltatori che vogliono anche giocare con noi. Prima però vorrei leggere un tweet, se lo ritrovo. Intanto io vi ricordo che noi aspettiamo anche chiamate su che cosa vorreste essere, da che cosa vorreste essere liberati, che cos'è, visto che oggi è il 25 aprile la liberazione, che cosa serve liberarsi oggi, di che cosa serve liberarsi oggi. Non riesco a parlare molto bene. Per esempio bene. Dalla disoccupazione, oppure chissà dall'Expo. No, dall'Expo no. Potrebbe essere una risposta da Renzi, qualcuno ha detto. Sulla questione dell'Expo c'è Pietro Bellomi su Twitter che ci mette in guardia sul fatto della formazione, che aiuto può dare ai visitatori, un addetto assunto da 10 giorni. Formazione e informazione saranno stati sufficienti? Anche questo è anche un dubbio legittimo. In più, secondo me, va sottolineato che la questione sia dei volontari sia degli stipendi diventa più grave nel momento in cui quotidianamente leggiamo sui giornali quanti miliardi si siano mangiati per questo Expo, quanti soldi siano andati in mazzette, che quindi tu dici scusami, ma voi vi dividete dei patrimoni pazzeschi e poi dopo hai bisogno dei volontari e io devo venire a 200 euro, oppure non mi paghi la casa, devo lavorare anche il sabato, domenica e la notte. Anche per questo non aiuta, diciamo, ecco. Giustamente la gente dice io faccio il volontario per le onlus. Andiamo da Rosanna che ci chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Un saluto, benvenuta. Un abbraccio, buona festa. Grazie. Te, buona festa. Ascolta, io, mia figlia lavora in banca da 10 anni, sì. L'hanno chiamato per fare il colloquio, no? La direzione, sì. Mia figlia parla 3 lingue, è laureata in economia, l'hanno presa subito per l'Expo, no? Ah, bene. Ma lavora in banca e lavora anche per Expo? No, hanno fatto fare il colloquio per la banca, per andare all'Expo. Non ho capito. Cercavano dei ragazzi, sì, che già lavorano laureati in banca, che, sì, sono già stipendiati, per andare all'Expo. Ma si deve licenziare dalla banca? Sponsorizzare la banca, no? Ah no, però per sponsorizzare la banca? Sì. Allora, quindi lei, scusi Rossana, sua figlia andrà inviata dalla banca per cui lavora a Expo a fare la svolgere un incarico. Non va mia figlia, aspetti. Allora ha fatto il colloquio, sì, subito, bella presenza, 3 lingue e via. Lo stipendio era sempre quello. Si doveva sbattere sabato, domenica, alle 11 la sera. Ma dice mamma, scusi, a me conviene che prendo lo stesso stipendio, andare a stare in mezzo alla gente fino alle 11 della sera, tornare col tram. Ma sua figlia però già lavora. Sua figlia ha già un lavoro? No, io volevo arrivare. No, però scusi Rosanna, non abbiamo capito. Sua figlia lavora. Prima domanda, sua figlia lavora? Da 10 anni. Perfetto. In banca. E ha fatto le selezioni per Expo? Ecco, e l'hanno presa subito. E ha valutato di non andare perché preferisce il lavoro grande. Ma se c'è un lavoro fisso in banca a tempo indeterminato, perché dovrebbe mollare quel posto per lavorare 6 mesi? No, io volevo arrivare. Se questo è un rifiuto per loro, che vende 1800 euro, va bene. Allora i ragazzi sì che rifiutano. Perfetto, giusto. Ho capito. Grazie, Rosanna. I ragazzi che prendono 500 euro e si devono pagare le spese. E poi netto rimane 100 euro, ma conviene? Allora, se per questo è un rifiuto, a me non mi va bene chiamare i ragazzi fannulloni. Giusto, questo volevo giusto. Dire. Va bene, è molto chiaro. La storia che ci ha raccontato è, però credo che sì, ci sta, ma l'abbiamo detto, sono ragazzi che hanno delle alternative. In questo caso addirittura aveva già un lavoro, quindi figurati. Ma non capisco perché fai comunque il colloquio a Expo, cioè che cosa puoi pensare, che in 6 mesi che cosa ti diano, 2 milioni di euro? Insomma, molli il lavoro in banca fisso che c'è anche la quindicesima per lavorare 6 mesi. Infatti non però credo giusto... che sia un caso molto rappresentativo. No, però questo è giusto non che credo. Sottolineasse la nostra ascoltatrice il fatto che ci sono rifiuti e rifiuti, insomma, di considerare dei rifiuti nel momento che uno viene magari da 1000 chilometri di distanza tutto. E avrebbe delle spese più alte di quello che guadagna, quello non è che sia un rifiuto, è una considerazione logica. Giorgio da Ferrara, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, io per questo 25 aprile vorrei tanto che ci potessimo liberare del Pinocchietto di Firenze. Pinocchietto perché ci racconta balle su tutti i fronti. E con chi lo sostituiamo? Aspetta, però, prima di andare sulla sostituzione, chiediamo perché lo vuole sostituire. Perché lo vuole togliere? Perché c'è Pinocchietto, perché ci racconta balle in continuazione, no? Cioè, la situazione che adesso c'è lui è migliorata estremamente, i disoccupati che sono calati in maniera fantastica, tutto va bene, tutto va bene, non mi sembra. No, no, sicuramente tutto non va bene e sicuramente Renzi è uno bravo a raccontare le cose, mettiamola così. Esatto. Carlo, le voleva chiedere però con chi vorrebbe sostituirlo il Pinocchietto? Ma guardi, non credo che sia un problema di nomi, perché a questo punto... Ne faccia uno. Perché se lo togliamo bisogna mettercene un altro. Dai, facciamo un nome, liberiamoci di Renzi per metterci... Oscar Giannino. Ok, grazie. 800 24 00 24. Fra poco Oscar arriva, glielo chiediamo se è disponibile. C'è un posto che si potrebbe liberare a Palazzo Chigi. Adesso, come detto, andiamo ad Anna Capri. Il sindaco di Anna Capri, Francesco Cerrotta, benvenuto. Buongiorno a lei. Buongiorno sindaco. Insomma, lei e la sua giunta avete deciso di restituire alla gente il potere, sì, in questo caso, di decidere tramite referendum sulla questione delle slot machine, su cui già avete fatto delle disposizioni. Perché però scegliere di consultare proprio i cittadini? Ma per avvicinarli al problema, dato che noi abbiamo registrato un allarme sociale, vogliamo che la gente si rendesse conto maggiormente di questa problematica. Ma in definitiva noi faremo un referendum per decidere se è giusto difendere i luoghi sensibili, perché lei sa che questa è una legge dello Stato per i cosiddetti giochi leciti. Però sa che tra l'altro è in arrivo anche forse una nuova, diciamo, regolamentazione che potrebbe togliere ai comuni. È in arrivo, ma non arriva mai. E quindi voi avete già, diciamo, partendo da questo allarme sociale che avete registrato, avete fatto delle disposizioni. Abbiamo per il regolamento. Che cosa prevede? Che proibiamo, diciamo, in un raggio di 150 metri dalle scuole, dalla chiesa, dal bancomat per esempio, che non si possano installare le slot. Sì. E quelli che già ce l'hanno, entro un anno, abbiamo dato un anno tempo, decadono le licenze, devono, le concessioni devono togliere. Anche perché noi registriamo pure una perdita strategica del commercio. Oggi, con un guadagno così semplice, il commerciante non si avventura più a migliorare la sua vetrina. Cioè il commerciante gli conviene mettere lì due slot piuttosto che starsi a preoccupare di fare l'aperitivo, di mettere fuori le patatine, di fare... Per un facile guadagno. Esatto. Vediamo, in effetti io questo dico sempre quando parliamo di slot machine, vediamo nelle nostre città molto spesso chiudere delle librerie, dei cinema, dei teatri, a volte anche dei ristoranti, delle attività commerciali che insomma hanno qualche cosa a monte a valle per vedere aprire solo delle slot house. È un panorama un po' desolante. Ce ne sono, abbiamo un record in Europa, forse qualcosa, ma lo dicono anche gli stessi gestori. Per esempio la rete aderente a Confindustria lo ha detto più volte che qualcosa bisogna rivedere su questo. Cosa si aspetta da questo referendum? Un'inversione di rotta del nostro governo. Sì, perché poi il problema è quello degli introiti fiscali, lo sappiamo benissimo. cosa si aspetta dai suoi concittadini? Perché molti giocano, cioè se il gioco è in crescita vuol dire che c'è tanta gente che gioca. Sì, cosa però pensa che però non è la maggioranza che ma gioca? Guardi, ma non è, dirà che non è la maggioranza, ma c'è proprio un grido di allarme degli stessi giocatori, perché questa è una patologia. Allora i propri giocatori ci hanno chiesto di intervenire, perché toglierle per loro, loro guardando solo la slot c'è una grande attrazione, perché queste sono fatte proprio per attirare psicologicamente il cittadino, il giocatore. E loro poi ci hanno chiesto: le dovete togliere? Chi gioca? Sì, della problematica delle famiglie, perché avete in cura diverse persone, sì, all'ASL? Sì, abbiamo in cura diverse persone, ma abbiamo fatto pure un convegno, c'è stata una grossa partecipazione. Però c'è chi dice, c'è chi dice chi gioca alle slot machine più che un malato è semplicemente un pirla, come vogliamo, a Milano si dice così. O un giocatore. O un giocatore. Non è vero, è una patologia seria. Sì, ma al di là della patologia c'è anche il fatto semplicemente di giocare, perché poi può diventare magari patologia, ma non sì. è che... Cioè io quello che mi chiedo, però forse sbaglio, si può fare un referendum su una questione come questa? Nel senso che io penso che se lo si chiedesse a tutta Italia probabilmente vincerebbe il fatto di togliere le slot machine. Il problema è che le slot machine sono un introito molto preciso, economico, per le casse del comune e le casse dello Stato. No, del comune no. Ah, mi scusi, allora solo dello Stato. Chiedo scusa. E degli esercenti. Sì. Quindi si può fare un referendum? Cioè, vale... Certamente. Questa è una buona notizia. Fra l'altro voi siete il primo comune in Italia che fa una cosa del genere, credo, sì, me lo conferma? Pare di sì. Però a noi questa notizia è particolarmente piaciuta, perché in effetti di ordinanze, di regolamenti regionali, comunali ce ne sono molti. Il governo ha detto che... E i TAR sono... si esercitano a volte nel sospendere anche alcuni di questi regolamenti, però il governo ha detto che ha allo studio una normativa, però che un sindaco e una giunta di un comune piccolo come il vostro, ma insomma non importa la dimensione, dica: voglio sentire cosa ne pensano i cittadini, anche coi dubbi che diceva Carlo, cioè sul fatto forse bisognerebbe chiedere siete disposti a rinunciare a questi introiti fiscali e quindi a tagliare delle altre spese, però questo diventerebbe più complicato, di chiedere alle persone comunque cosa... La difesa dei luoghi sensibili. Noi stiamo là a dire: noi vogliamo difendere i luoghi sensibili. Non è possibile che a 10 metri, a 5 metri, a 100 metri da una scuola ci sia una... Però mi scusi, di nuovo forse sbaglio, ma io non credo che voi siate un comune gigantesco per dimensioni. Quindi togliere i luoghi sensibili vuol dire o toglierle da tutto il paese, ci sono sei passi. Ci sono dei luoghi che magari, con queste dimensioni che abbiamo messo, è possibile installarle, ma logicamente noi ci siamo dovuti spiegare nell'ambito della legge, perché noi non possiamo decidere di non mettere. Esatto. Questa è un'autonomia che non ci viene... Era questo che chiedevo con la questione del referendum. E appunto, noi abbiamo fatto, diciamo, una strategia. E certo, 100 metri... È la strategia scelta poi da tutti i comuni che hanno voluto regolamentare il fenomeno, ma anche dai governi che ci hanno provato, quello di porre delle regole, le distanze famose dai cosiddetti luoghi sensibili. Io personalmente credo che Genova l'ha fatto anche l'Emilia-Romagna, la Lombardia, Milano, la Toscana. Ci sono comunque discussioni, perché questo si evince che un sindaco, un'amministrazione deve essere lasciata libera. È un argomento molto controverso, ci sono poi naturalmente i ricorsi a parte dei gestori e quindi sta diventando una materia di cavilli. Quindi da un lato sicuramente è auspicabile che ci sia un provvedimento del governo, dall'altro i sindaci si muovono delle iniziative e la vostra chiede ai cittadini di dire cosa ne pensano, e quindi mi sembra particolarmente giusta, democratica. Liberarci delle slot. Va bene, grazie. Ottimo, grazie mille. Grazie sindaco Diana Capri. Grazie a lei. A lei devo rettificare una cosa, perché pare che i dipendenti in banca non abbiano la quindicesima e mi hanno già bacchettato. Chiedo scusa, pensavo di era ironico, forse, la quattordicesima. Esatto, c'è la quattordicesima. Poi è molto bello perché ci sono moltissimi messaggi che ci dicono: non avete capito nulla di quella ragazza che era in banca per 10 anni e faceva anche le selezioni per Expo, e ognuno dà un'interpretazione diversa. Abbiamo 28 interpretazioni diverse. Dicono: la sua banca Daniele avrebbe chiesto lavoro extra non pagato per sponsorizzare l'istituto durante Expo, oppure dico la ragazza andava ad Expo però in trasferta ma non per conto della banca. Insomma, ognuno ha dato una sua interpretazione, però diciamo che una cosa è sicura, Rossana, noi non abbiamo capito niente. Esatto, la signora Rossana non si era spiegata benissimo. E chiedo scusa per il mio errore. È un punto fermo. 800 24 00 24, che facciamo? Ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco di nuovo anche con il vostro da che cosa vorreste essere liberati oggi. Attualizziamo questo 25 aprile e come sempre abbiamo in palio anche oggi questo bel cesto di prodotti offerti dal comune virtuoso di Mezzago a con base la spargo rosa. Di spargo rosa, una bella cosa. Vai. Sentirsi con papà senza santi da pregare si può fare. Eccoci qua, 800 24 00 24, ci chiama Marcello da Roma, buongiorno, per dirci che cosa? Io vorrei liberarmi del politically correct. Aspetti, lo dica bene, lo dica bene Marcello, perché sei inceppato. Politically correct. Dal politicamente corretto. Esatto, politicamente corretto. Quello che ci fa dire i migranti invece che clandestini, le quote rosa, la Boldrini, i Severini, tutto questo mondo di buonismo, di politically correct. Però non mi sembra che siamo che siamo in un grandissimo politically correct in questo momento. Voglio dire, c'è gente che va in televisione e dice i rom sono la feccia d'Italia. Direi che non c'è molta correttezza. E c'è gente che dice non bisogna accomunare, non bisogna fare. È vero che non bisogna accomunare. Ecco, questo è politico corretto. Questo è il minimo. Perché secondo lei è giusto accomunare? Cioè dire tutti quelli che sono calabresi sono così? Secondo lei è corretto? No, io non lo penso. Se io dico gli italiani sono bravi a cucinare, per esempio, è una cosa che si può dire. Perché non posso dire che i rom rubano? Mediamente, è ovvio, si intende la maggioranza. Perché non è così? Ma perché non è minimamente così? Perché qualcuno che non ruba potrebbe offendersi. Parlando dei rom, non voglio rovinare la trasmissione, ma non ci rovina niente. Qual è la percentuale che lei direbbe rubano o hanno la sedia penale sporca per qualche ragione? Non ne ho la più pallida idea, scusi, ma sicuramente non la maggioranza. Sono pronto a scommetterci tutto il mio stipendio. Scusi un attimo, io non ho capito se lei ce l'ha col politicamente corretto, diciamo col linguaggio, o con il buonismo. No, con i rom, questa è un'altra ipotesi. No, il buonismo è politicamente corretto. Quando si dice che le donne devono avere le stesse opportunità degli uomini, lei non è d'accordo? Io sono d'accordo che però non serve una legge per fare questo. Non serve una legge per fare questo, per fare un esempio. Come devo parlare, come dice la Boldrini. Sì. Io l'italiano, per esempio, quando si dice presidente, è un participio presente, semplicemente, che presiede in quel momento, participio presente. Non serve chiamare presidentessa o inventarsi altre cose. La Boldrini, Severini sono persone. Severini. Severini è l'emblema giornalistico. Ma che problema c'è nel chiamarla presidentessa, però? Nel senso che capisco che un problema che lei non lo tocca perché è un uomo, ma non mi sembra una cosa così difficile. Infatti io sono uomo bianco nei 40 anni, a me non mi caga nessuno, perdonatemi, perché non sono nessuna minoranza, sono l'italiano medio che non interessa a nessuno. Ma come che non interessa a nessuno? L'italiano medio, ci occupiamo sempre solo dell'italiano medio. Le faccio un esempio per spiegarvi cosa intendo. Parenzo è politico corretto. Va bene, Marcello, guardi, a me questo argomento non mi interessa più per niente. Grazie per aver chiamato, perché altrimenti entriamo nel Parenzo. Lei ha detto quello che si vuole liberare. Lui si vuole liberare del politico corretto. Ma va benissimo. A volte c'è un'esagerazione nel linguaggio che vuole edulcorare le realtà. Cioè, quando sono poi molto d'accordo. Si va sul razzismo, totalmente contrario. Non si capiva, Marcello, da quale parte prendeva, ma saremmo stati qua tutta la mattina per eviscerare il concetto. Invece è arrivato un momento importante, è quello in cui facciamo divulgazione sui temi della corruzione, perché i cittadini italiani sono pieni di notizie su tutti i giornali, nei talk show, da tutte le parti di cose che riguardano la corruzione, ma non ci si capisce più niente. E noi ce l'abbiamo quello che ci aiuta. Alessandro Inna, vai. Alla fine mi assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina. Eccoci qua, Alessandro Inna, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Esperto di anticorruzione, docente all'Università di Tor Vergata, tiene anche un, possiamo chiamarlo master? Un, sì, è un corso di specializzazione. Sì, ti assomiglia molto. Su, dipende dal numero delle ore, poi diventano master o rimangono corsi, ma i contenuti sono quelli. Eccoci qua. Allora, insomma, io ho detto questo, siamo già la seconda volta che ci sentiamo, stiamo cercando un po' di inaugurare questa rubrica che abbiamo chiamato, tra l'altro, su Twitter, se volete commentarla, con un hashtag caffè corrotto, perché ci abbiamo un caffè con Alessandro Inna e parliamo appunto di corruzione. Di corruzione. Siamo pieni di notizie adesso, quindi cerchiamo di spiegare un po' anche i termini delle cose, cosa succede intorno a noi. Alessandro Inna è un ottimista, dice guardate, le cose stanno un po' migliorare, sta cambiando, c'è attenzione, si stanno facendo tante cose. È appena finita la fiction, tra l'altro, 1992 su Sky, che ci ha riportato agli anni di Tangentopoli. Ma è vero che stiamo meglio, Inna, di allora, e perché? Allora, dunque, no, seguivo la trasmissione, io mi vorrei liberare dalla corruzione, stavo pensando, ecco, bravo. Mentre ascoltavo insomma, un po' il dibattito. Per e me vince già ad onore il premio. Si sta candidando per vincere il cesto con l'asparago, che poi smezziamo, è praticamente è un atto corruttivo questo, esatto, è un atto corruttivo. Era un esercizio immediato, così per capire me. Perfetto, è un test, è un vero master. Esatto. Esattamente, collaboratori. Dunque, ma no, non so, no, non stiamo meglio, però sicuramente ci stiamo provando di più, nel senso che, come ci siamo detti altre volte, finalmente c'è un ragionamento di sistema su come provare ad aggredire e a prevenire il fenomeno corruttivo. Ho sentito che avete parlato di Expo, insomma di questi giorni c'è Cantone che sta lavorando in Senato, stavi dicendo, Alessandro? Il Senato sta facendo una cosa importante, cioè tutta alla luce, noi avevamo avuto una direttiva comunitaria del febbraio 2014 che voleva mettere mano alla riorganizzazione di tutto il sistema degli appalti e quindi delle concessioni di servizi. Noi avevamo due anni di tempo, tutti i paesi, per adeguarsi. Dopo un anno ci stiamo adeguando e facciamo delle cose importanti, diamo dei poteri per esempio a Cantone, all'ANAC, per avere maggiore forza in materia di vigilanza, controllo sugli appalti. Non è una cosa banale, addirittura si sta pensando, e la norma ormai lo dice, di un albo dei commissari, quindi ci sarà un albo di coloro i quali potranno partecipare a queste commissioni in cui si selezionano gli appalti, ci sarà maggiore trasparenza, sono tutti interventi, ci saranno delle linee guida, ci saranno dei contratti tipo, ci sarà addirittura l'accreditamento delle stazioni appaltanti, cioè non tutti possono gestire appalti di una certa importanza, devono avere determinati requisiti, non solo morali ma anche tecnici. Insomma, la politica un po' si sta muovendo, perché alle ultime elezioni il Movimento 5 Stelle ha preso un sacco di voti anche molto su questi temi qua, quindi che se ne dica, ha dato una spinta, un contributo. Le inchieste sono talmente tante che insomma, sarà anche uno spirito di, come dire, di, per salvarsi il posto di questa generazione di politici che stanno adesso in Parlamento, però a Inna non interessa, cioè, di fatto si stanno facendo le cose e noi ci fidiamo di lui e ti veniamo dietro. Adesso va di moda per esempio la questione della rotazione negli incarichi della pubblica amministrazione, l'ha parlato anche Cantone, lo vuole fare Padoan nelle municipalizzate, lo ha fatto Marino a Roma. È così importante questa cosa? Funziona? Sì, è importante. Allora, solo per chiarire ai telespettatori, noi abbiamo due grandi filoni su cui stiamo lavorando. Da una parte, grandi riforme centrali. Questa storia degli appalti ti racconta il fatto che stiamo mettendo mano alla normativa e all'organizzazione di tutto il sistema di come si danno gli appalti. E questo è un tema centrale. Poi c'è una responsabilità diffusa. Cioè la nostra normativa oggi prevede che tutti gli enti locali, tutte le amministrazioni di questo paese, chiedo scusa, debbano fare una propria strategia di prevenzione della corruzione. Nelle attività che devono fare, tra le attività che devono fare, devono anche pensare alla rotazione del personale. Perché questo? Perché si sa, statisticamente si conosce, ovviamente se io sono su una determinata posizione organizzativa, su un determinato ruolo per tanti anni, è ovvio che sono ho la possibilità di costruire, diciamo che probabilmente, siccome è una politica di prevenzione, non è un'accusa alla persona, io sto cercando di diminuire la probabilità che possano esistere fenomeni corruttivi. L'occasione, allora, si sa, fa l'uomo padre, e quindi ruotare un fa l'uomo corruttore significa creare condizioni di turnover, no? Quindi magari il sistema delle relazioni che si consolidano dopo tanti anni ovviamente può essere un presupposto di probabilità. Il fatto che si voti può aiutare, ovviamente non è rotazione selvaggia. Ma non c'è il rischio, non c'è il rischio che poi i funzionari siano meno preparati perché ruotano e ogni volta fanno un lavoro nuovo che devono imparare per sei mesi? Giustissimo, questo è il punto chiave e il punto difficile. Su questo guardate, c'è anche l'ANAC che si è espressa anche recentemente, cioè il problema qual è? Non deve essere una rotazione selvaggia, perché noi dobbiamo saper bilanciare bene adeguatamente che cosa? Da una parte l'opportunità della rotazione per i motivi che ci siamo detti, dall'altra però questo non deve inficiare la qualità dell'amministrazione. Quindi è ovvio che bisogna trovare un equilibrio, non facile, ma di volta in volta capendo, perché se poi quella posizione, quel ruolo, quell'ufficio ha forte specializzazione, non possiamo sostituirlo con un'altra persona, dovremmo trovare un'altra strategia di prevenzione della corruzione che ovviamente non dovrà privilegiare la rotazione. Certo. Alessandro, senti, in settimana il sottosegretario ai beni culturali, tanto le notizie non mancano mai, Barraccio, Francesca Barraccio, c'è stata la richiesta della Procura di Cagliari per rinvio a giudizio, vedremo poi se sarà rinviato a giudizio oppure no, è solo una richiesta, però l'accusa è di peculato. Cos'è il peculato? Noi ti facciamo sempre una domanda per... non entriamo nel merito della vicenda, ci interessa imparare le parole, come si chiamasse la Treccani. Cos'è l'accusa? Peculato. Dunque, siamo sempre all'interno di un reato che è previsto dall'articolo 214 del codice penale, e è quando, in buona sostanza, sempre il solito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico sostanzialmente entra in possesso di un denaro, di denari o di altre cose di cui dispone per l'esercizio della propria funzione, cioè ne entra in possesso avvantaggiandosene dal punto di vista dell'interesse privato, quindi se io ho una disponibilità di spesa, facciamo finta, per la mia esercizio di funzione e io invece distolgo questi denari per spese mie personali, è peculato. Ovviamente è peculato. Cioè, se metto nelle spese l'acquisto di due vasi di Nutella e le metto a. Ecco, a meno che la Nutella non ti serve proprio tanto. Perché no, va bene. Avevo fatto l'esempio più lontano possibile, esatto, però giustamente lei dice: se è la commissione del controllo Nutella, hanno ragione ad acquistare la Nutella e metterlo in nota spese. Però insomma, tendenzialmente il peculato è questo: è spendere soldi pubblici per interessi personali. Esatto, soldi o cose che tu hai a tua disposizione nell'esercizio della tua funzione, quindi ti servono per svolgere la tua funzione e invece tu lo usi per altri, per interessi tuoi, usi privati, e quindi e li distogli. Che è un po' il reato che va di moda molto nei consigli regionali ultimamente. Ma grazie. Vanno di moda un po' tutti i reati in questo momento. Grazie Alessandro Inna, buon grazie sabato. Mille, buon sabato, sentiamo... buona liberazione. Buona liberazione. Al prossimo Caffè Corrotto con Alessandro Inna, 800 24 0024. C'è il traffico, torniamo tra pochissimo. Abbiamo anche noi la nostra storia, diciamo, in quota liberazione, perché vogliamo dire a questo punto noi da che cosa vorremmo liberarci, e abbiamo scelto di volerci liberare per esempio dagli stereotipi. C'è un progetto che riguarda le donne che si chiama Cattive Ragazze, è un fumetto, è una storia illustrata, anzi adesso si dice una graphic novel, certo, ma poi sono anche dei laboratori nelle scuole, sarà un spettacolo teatrale. Ne parliamo con la ideatrice, presidente dell'associazione culturale Kind Off, Giulia Musumeci. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Cos'è e come nasce Cattive Ragazze? Allora, Cattive Ragazze è un progetto che si basa appunto sulla graphic novel di cui accennavi tu, pubblicata da Sinus nel 2013, è un premio Andersen 2014, Grazie, un premio ragazzi. Importante nell'ambito del premio importantissimo, sì, 15 storie di donne audaci e creative di Asia Petricelli e Sergio Riccardi, che racconta appunto la storia di 15 donne che in epoche diverse, in contesti molto diversi, hanno travolto tradizioni e stereotipi. E basandoci appunto su questa graphic novel abbiamo deciso di costruire un progetto che è educativo, teatrale e di ricerca, per cui abbiamo coinvolto diverse scuole sul territorio nazionale di diverso ordine e grado, e gli studenti coinvolti e leggeranno il libro, ovviamente parteciperanno ai laboratori drammaturgici. Questo è molto importante, perché progetti all'interno delle scuole, io ne ho sentiti tanti ultimamente, tra l'altro uno incredibile con una sponsor di una, adesso lo dico perché così mi è capitato di imbattermi in questa cosa, una nota marca di detersivi che sponsorizza un progetto, diciamo, da contenuti didattici abbastanza insignificanti, nebulosi, in cambio di una bella sponsorizzazione. Ecco, a fronte di progetti così ci sono cose serie, studiate, autofinanziate come Cattive Ragazze, quindi alle scuole, agli insegnanti, ai genitori all'ascolto dico fatevi vivi con Giulia Musumeci di Cattive Ragazze, fa un bellissimo progetto nelle scuole sul ruolo delle donne. Però mi interessa anche la graphic novel, come si presenta esteticamente questo fumetto che si trova adesso in edicola, in libreria? No, si trova in libreria, sì. Innanzitutto va detto che Cattive Ragazze è una graphic novel ad alta leggibilità, quindi è stata studiata appositamente anche per chi ha difficoltà di lettura, di qualsiasi natura siano. E peraltro il disegnatore Sergio Riccardi ha fatto una scelta molto precisa nel riprodurre le figure femminili che hanno deciso di raccontare, ed è quello di essere molto fedele alla loro, a come erano effettivamente, quindi al loro corpo, ai loro movimenti, a come erano fatte. C'è una donna di queste che a te particolarmente sta più a cuore, tu che sei l'ideatrice di tutto questo? Io le amo tutte, devo dire, quindi non sono molto non sei indicativa, giusto, una di queste. Però sicuramente, visto che oggi è il 25 aprile, cioè, sono sicura che gli autori sarebbero d'accordo con me, ne voglio ricordare una che è Onorina Brambilla, che rientra fra le Cattive Ragazze e che è stata una partigiana insieme ad altre migliaia di donne che hanno combattuto con lei nella Resistenza, e la chiamavano Nori, gli amici, ed è stata lei, come tante altre, catturata dall'SS, torturata, poi deportata al campo di concentramento di Bolzano, da lì poi è riuscita a raggiungere Milano e a combattere. Ed è mancata pochissimo tempo fa. Onorina Brambilla, la nostra cattiva ragazza oggi per eccellenza, per presentare questo progetto di cui, prometto, parleremo ancora. Tra l'altro hanno bisogno anche di un sostegno, di un aiuto, è tutto autofinanziato, un progetto che riguarda... Sì, ecco, io in realtà volevo dire una cosa che è una cosa importante. In 20 secondi. È un progetto autofinanziato, è vero in parte, nel senso che è partito come un progetto autofinanziato, poi in realtà abbiamo avuto la possibilità di avere dei contributi importantissimi dal Salone del Libro di Torino, dall'assessorato alle pari opportunità di Roma Capitale, da Federmanager di Torino, quindi grazie, in bocca al lupo Giulia, ci risentiremo sicuramente. Io voglio in chiusura fare ancora un ascoltatore, perché sì, Luca d'Arezzo. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Io seguo sempre trasmissione dinamica, interessante e zampillante. È meraviglioso. Veramente una bella trasmissione. Però hai 30 secondi per dire quello che vuoi dire. Il 25 aprile mi vorrei liberare della globalizzazione. È possibile tornare a vivere in un mondo normale? Chissà com'è. Ma cosa vuol dire liberarsi della globalizzazione? È un po' complicato, è un po' ingombrante anche. Allora, adesso faccio un esempio in 10 secondi. Sì, per esempio tutto quello che avete detto dall'Expo a tutta questa situazione di ansia per correre sempre dietro a qualcosa che... Ecco, l'ansia per correre dietro a qualcosa. È questo. Ti diamo il premio sulla fiducia. È la massima sintesi. Ti diamo il premio sulla fiducia. Che potevamo fare? Grazie, vince il premio dei comuni virtuosi Luca d'Arezzo. Noi salutiamo tutti. Andrea Piana, che ha scritto con noi il programma. Claudia Schiattone, Emilia Lucchetti, redazione. Carmelo Loricelle, regia. Ci sentiamo domani. Domani, ciao da Carlo Gabardini. E adesso Maurizio. Buona liberazione a tutti. Ciao.